Ore 7 spaccate. Una manciatina di secondi, via. Per essere precisi, precisi. Qui c'è l'Ariele negli studi di Rock FM, via Locatelli 1, 20124 Milano. Questo è pane, burro e rock and roll, la nostra colazione che serviamo da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. Con me l'impagabile regista Spadino e il maestro Roberto Fricantoni, il nostro rocker di riferimento. Come ogni mattina, in compagnia di Mister Trombetta, ho il piacere di gridare sigla! Gridà, con la voce che ho adesso. Puntata 115, martedì 23 ottobre. Benvenuti, benvenute, buona giornata. Pane, burro e rock and roll, la tua colazione rock. Anche quest'oggi toglieremo le tenebre. Pane, burro e rock and roll. E faremo sorgere il sole. Noi, sì, noi. E allora? E devi... Problemi? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Amici ed amiche, stringiamo i denti che gli affamo. Ormai siamo una squadra, la squadra di pane, burro e rock and roll. Combatteremo insieme per cacciare le tenebre anche quest'oggi. Da una Milano ventosa, parecchio frescolina, ma il freddo è arrivato, ragazzi, eh? Tanto per iniziare così con qualunquismo la puntata di quest'oggi. Tante sorprese nelle due ore che ci attendono. Restate incollati alla frequenza e se poi gnafate ad ascoltare tutta la trasmissione, vi ricordo che come sempre dopo qualche minuto dalle 9 precise ritrovate il tutto su RadioRockFM.com in streaming oppure in podcast. Ammesso e concesso che sappiate utilizzare il podcast, cosa che io non so fare. Però lo preparo, perché mi è stato chiesto, quindi preparo il podcast nella speranza che qualche giovane amico o amica là fuori sia poi in grado di riascoltare la nostra trasmissione, che quest'oggi inizia con i Tesla. Forever, get away. chiusura acustica, eh? Yeah. Tesla, Little Susie. Anche voi amici, quando scendete dal letto la mattina, dovreste fare au! Attenzione, c'è uno che corre, eh? Però attenzione, potrebbe essere l'omino che fa jogging. Lo sto vedendo. Se torna indietro, ragazzi, è lui. Perché è difficile, essendo vicini alla stazione centrale di Milano, a volte corrono solo per andare a prendere il treno. Quindi per capire se è un omino che corre, vero, o se è uno che sta perdendo il treno, dipende se torna indietro. No, direi che è andato di là. Vabbè, ce lo siamo giocati anche questa mattina. Una giornata a voi che vi alzate dal lettuccio, a voi in toilette. Quello è un altro però, ragazzi, ma due, eh? No, questo è vestito... Ragazzi, questo è un eroe in pantaloncini corti. Spettacolo! Oh, due in un colpo solo. Scusate, per chi non sapesse cosa sto delirando, è consuetudine da queste frequenze di sbirciare cosa succede nello spicchietto di Milano che vediamo, nello specifico un pezzettino di via Vittor Pisani, dove a volte c'è qualche pazzo scatenato, che stimiamo tantissimo, che se la corre. Però anche questo è andato di là e Spadino non torna più, quindi boh, vi terremo comunque aggiornati. Buona giornata a voi nella vostra toilette e a voi nella vostra autovettura ancora troppo fredda per i vostri gusti, a voi che vi state svegliando e a voi che state andando a dormire perché avete terminato il lavoro. Siamo in squadra con ognuno di voi, e se anche voi volete essere in squadra con noi di Pane, Burro e Rock and Roll, beh, l'invito è sempre lo stesso: partecipate, costruite mattone dopo mattone questo spazio radiofonico al 335 100 77 77. Vorrei che uno di quelli lì che sta correndo è uno degli ascoltatori, però avrebbero le cuffie, avrebbero sentito che li stavo salutando, quindi non possono essere loro, e poi non stanno tornando indietro, quindi a noi gli omini che corrono piacciono se vanno avanti e indietro, se no non ha senso. Perché a noi piacciono le cose che non hanno senso. Tra pochissimi istanti l'almanacco del giorno che fuma, attenzione, perché quest'oggi è martedì, quindi il consiglio spassionato che vi do è di rintracciare carta e penna, perché ho serie intenzioni, entro la fine della prima mezz'ora, di contattare Carlo, il nostro tabaccaio di fiducia, il nostro tabaccaio di riferimento. Non vorrei ricordarvi che venerdì scorso, ci abbiamo azzeccato Lambo, io la butto lì, eh. Voi segnatevi i numeri che dà Carlo. E vabbè che sono rock che non escono. Ma ammetti che escono. Non escono, eh. Ammetti che escono. È sicuro che non escono. Ma ammetti che escono, eh? Vi lascio con questo dubbio amletico. Insieme a questa stella oscura, Dark Star, Crosby, Steel, Nash. E Young, dove lo mettiamo? Dove è andato, Young? My fantasies might seem a little sharp worn. I'm sure you've heard it all before. I wonder what's the right form. Love songs written for you. It's been going down for years. But to sing what's in my heart seems more honest than the tears. I am curious. You wanna hurry us and intrigue with us. Ain't this song a bust? I don't care. Dark Star, I met you several years ago. The times that were so strange, but I had a figure there. You looked into my eyes just once, an instant flashing by that we were stealing. Another time you felt so bad, and I wasn't in any help at all, as I recall. We didn't know quite what to do, so we left the wanting be still there for me and you. Dark Star, I see you in the morning. Dark Star, asleeping next to me. Dark Star, the memory of the evening be the first thing that you think of when you open up your smile and see me. Dark Star, it's easy to be with you, your search for peace. We must make some time together, take the kids and find a world that's ours to keep. And now you got me dreaming, girl. It's been so long, I thought that I'd forgotten how. My heart is once again my soul. We touched, we did, you know we did. No more teasing now. Dark star, I see you in the morning. Dark star, sleeping next to me. Dark star, let the memory of the evening be the first thing that you think of when you open up your smile and see me. Dark star. Ed è grazie alle Ferrovie dello Stato ed è grazie agli impeccabili Eurostar Bologna-Milano, Milano-Bologna, che anche quest'oggi possiamo ricevere il buongiorno da Roberto Fricantoni. Buongiorno, oh. Anche se devo dirle che sono venuti in automobile. Ecco, lo sapevo, lei lo fa solo per farmi un dispetto. Ah, per smentirla, ma lo sa che le voglio bene. Io so benissimo che la sua macchina non ce la farebbe mai ad arrivare fino a Milano. In effetti è così, volevo solo disdirla. Io so come fare a iniziare una buona giornata con lei. E allora me lo dimostri. Facendo un almanacco del giorno che fu. Accidenti, accentrato in pieno. In questo 23 di ottobre cosa accadde? Accentrato l'obiettivo. Accadde che nel 1915, sì, nello stesso giorno, le donne, sì, ottennero il suffragio universale. Oh. A New York, 25.000 o 33.000 più o meno le stime sono, sì, su queste cifre. La questura puntava di meno. Di solito la questura dice un numero inferiore. Le donne marciarono lungo la Fifth. Ha perso un incidivo. Fix, lo rimetta subito. La Fifth. La Fifth. La cinquantesima. Avenue. Per chiedere il diritto di voto e gliel'hanno dato. 1915 gliel'hanno dato. In che senso? Gliel'hanno dato. Sì, beh, ma è giusto, era anche il 1915. Sì, è giusto, è vero, è vero. Adesso che rifletto meglio è giusto. Proseguiamo con lo scandalo Watergate. Che era... è del 1973. Esattamente, proprio il 23 di ottobre il presidente statunitense Richard Nixon accetta di consegnare le registrazioni audio delle conversazioni tenute nella celebre sala ovale. Sala ovale, sì, che dopo l'esperimento di Clinton e Lewinsky, un esperimento, sì, era, sì, in qualche modo, sì, divenne, lei sa, sala orale. Lei è scemo, caro Frick, ed è per questo che ce lo teniamo bello stretto. Io sono scemo e me ne vanto. E fa bene. Chiudiamo con una notizia tecnologica. Era il 2001 quando il 23 di ottobre la Apple lanciò la prima versione dell'iPod. Ah, uno di quei razzi supersonici. No, no, l'iPod. No. Non sa cos'è un iPod. No, ce l'hanno, sì, tutti. Ma certo. Casalinghe, bambini, ma chi, anziani. Ma chi oggigiorno non ha, ecco, un suo razzo personale? Non è un razzo. È un affare per ascoltare gli MP3. Ah, il famoso gruppo, gli MP3. No, va bene. Ok, grazie. I missili, il gruppo... Nemmeno, no. Gli MP3 sono dei file audio. No, il disco degli MP3, Missili. Sì, va bene. È uscito Buonanotte. Recentemente. Ci facciamo un caffè? Me lo offra lei, io non ho uno spiccio. Canta il buon Bruce Springsteen. Allora faccio un breve riassunto per chi si fosse perso la puntata di venerdì. Abbiamo questa brutta consuetudine di dare dei numeri a caso da giocare volendo al lotto oppure solo per avere dei numeri così ogni giorno. Carlo della tabaccheria ci aiuta, noi garantiamo come sempre, essendo una trasmissione rock, che questi numeri non usciranno perché sono numeri rock, mentre giovedì, venerdì sono usciti. Qualche radioascoltatore ha anche vinto e ci ha ringraziato nel corso delle scorse puntate. Noi invece, essendo dei veri rocker, non abbiamo vinto perché Carlo aveva giocato tipo la tripletta anziché l'ambo. E quindi è con uno scroscio di applausi che anche quest'oggi voglio dare il benvenuto a Carlo. Ciao, eccomi qua. Senti, sempre pronto. Gli applausi dallo studio di Rock FM. Sei troppo rock, Carlo. Questa mossa di far vincere gli altri e non noi è stata veramente rock. Complimenti ancora. Grazie mille. Dovresti ma scusa una domanda, ma poi tu nel privato ne giochi altri di numeri o no? No, guarda, sinceramente non potrei riuscire a soffermarmi su tutte le combinazioni che vengono proposte, altrimenti diventa un disastro. Cioè io vado sull'altri con il giro di mezza giornata. Sì, quindi... Ti devo porre un'altra domanda che mi fanno tantissimi. Sì. Solitamente mi dicono: Mariel, ma metti che poi Carlo vince, ma ce li dà i soldi? Lo dicono loro, capito? Come se fossimo tutti nella stessa squadra. Lì sì, guarda, mi ci metto di mezzo anch'io, Carlo, vedremo. secondo me è lì che si vedrà cosa esatto. succede, capito? Perché secondo me se ci scappa il 100.000 euro, Carlo, non lo troviamo più. Ecco, esatto, tipo, magari sono in qualche serranda tipo... abbassata sul tabaccaio con su scritto grazie Ariel. Mi trovi esatto. in Tasmania, esatto. Da qualche parte. Va bene, diamo la tripletta di quest'oggi. Il giovedì abbiamo azzeccato giocando il numero di SMS di Rock FM. Precisamente, quindi allora oggi, visto che gli argomenti erano inerenti proprio alla radio, vorrei restare su quelle stesse condizioni, visto che portano bene, e quindi vorrei giocarmi innanzitutto 12, perché sono tutte le voci di Rock FM, quindi essendo come voi 12 apostoli, siete praticamente gli apostoli del rock, e di conseguenza mi gioco il 12. Poi la frequenza di Rock FM, che è il 170, il 100 non si può giocare ovviamente, gioco il 10, quindi, e il 70. Beh, questa è la frequenza milanese, quindi facciamo così, ti do già, decidiamo già che giovedì poi ce ne giochiamo, non so, quella toscana, poi quella di Ravenna e poi quella, cioè tutte, ce le giochiamo tutte. Sì, meglio ancora, così c'è anche la città di riferimento. Esatto, quindi questa la giochiamo su Milano. Ovviamente sì, ancora più difficile questa. Ripeto, 12 come gli apostoli del rock, 10 esatto. che è il 100 stretto, sì. e 70. Ma perché non possiamo? Io voglio giocare il 100, Carlo, non si può. Mettono solo 90 numeri, se già ne mettono, già è difficile con 90, figurati con 100. Ma noi siamo contro le regole, Carlo. Vedrai che un giorno potremo giocare anche il 100. È una promessa questa che ti faccio dai microfoni di Rock FM. Tra l'altro segnalo che Carlo, non avendo nient'altro da fare, ha messo anche tutti i numeri a tutti i nomi degli speaker di Rock FM, ma ne parleremo poi nelle prossime puntate quando giocheremo degli ambio delle terne su di noi. Come la giochi questa, Carlo? Solo terna come sempre? Ma sì, punto alto, quindi insomma se dobbiamo dividerci una posta è inutile che ci dividiamo, diciamo, qualcosina per andare a mangiarci una pizza. Bravo. Dobbiamo mangiare qualcosa più tutti insieme, insomma. Un invito generale per tutta la radio. Senti, ma un ambino così che magari ci facciamo una colazione io. Ma no, bravo, terna, mi piaci. Tra l'altro ricordiamo che non siamo come gli imbonitori televisivi che vanno avanti a proporvi sempre gli stessi numeri. Noi li cambiamo sempre. Precisamente, cosa molto più difficile, quindi azzeccare qualcosa di impossibile. Carlo, più che difficile è cosa che non ha senso, ma è giusto così. Anche ti saluto, vero. Di nuovo in uno scroscio di applausi. Ci sentiamo domani, facci sapere se siamo diventati ricchi. Grazie mille a voi, ciao. Yeah.